e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo sempre in diretta e ovviamente siamo tornati con i nostri ospiti, con i nostri festeggiati. Direi che in questo caso la parola l'abito non fa il monaco, o meglio la parola, il detto l'abito non fa il monaco è sbagliato, perché abbiamo una ragazza che è entrata vestita, adesso si è un po' scostumata perché era partita forte, poi è caduta un po' in tentazione, si è tolta un pezzo per volta. Esatto, speriamo quindi che la serata finisca alle 5, alle 6 del mattino, così magari possiamo vedere un po' di cose interessanti. Più o meno ogni 30-40 minuti toglie un pezzo, quindi se volete avvicinarvi è un po' il tema clou della serata. No, chiaramente stiamo scherzando, però dicevo, l'abito non fa il monaco, perché vestita da suora al convento direi che ci stai a pennello, come si dice. Non fa una piega. Come ti chiami? Non fa una piega, tra l'altro, Non fa una piega. Grande. Hai visto che già stavamo parlando di lei, è commossa, tra l'altro, per questa tua battuta, sta piangendo tantissimo. Sono simpaticissima, ammettilo. Sì, è veramente così simpatica che ha commosso tutti. Presentati, tra l'altro, non ti abbiamo ancora conosciuta. Allora, io mi chiamo Anna e vengo da Verona. Ma hai visto, vedi com'è già spigliata, ok? Visto che ora ci ho preso confidenza. Sì, ci sta. E cosa festeggi stasera? Dici un po'. Il mio addio all'ubilato. Oh, sì. Con, oddio, con, no, sì, con loro, ok, va bene. Esatto. Giugno con Mirko. Con Mirko, sottolineiamo. Si offende. Ecco, parliamo subito di questa particolarità di questo Mirko con la C. Come mai questo dettaglio, ecco, questo sottolineare questo dettaglio? Perché spesso e volentieri vengono scritti sempre con la K senza chiedere niente a nessuno. E invece lui, insomma, ci tiene. Ci tiene che sia con la C. Esatto. Anche all'anagrafe, quindi, nei documenti. Ok, allora sottolineiamolo anche noi. E tra l'altro, come mai vestita da sola? Dici un po', forse per il locale, immagino, perché hai dei trascorsi monastici. No, perché ho sbagliato a parlare con le mie amiche, dicendo che, insomma, prima di organizzare tutta la festa, gli ho detto che volevo una festa sobria. Sì. E allora loro giustamente dicono: ti vesto da suora e ti porto così in non sei rischiosa, esatto, non rischi. Esatto, non rischi nulla. Però diciamo che poi, come dicevamo, sei un po' caduta in tentazione, hai deciso di fare vedere un po' le tue grazie. Esatto, sì. Perché come mai hai questa libertà? Perché fa un caldo assurdo. Ah, ok. Ho ballato tutta la sera. Brava, vedi, è solo questione di temperatura, quindi. Ecco. A proposito di amiche, vedo che anche loro sono in tonalità con il tuo vestito. Sì. Perché sono tutte bellissime. Bellissime. Molto belle. Dai, presentacela allora, dici un po'. Allora, lei è Annika, lei è Francesca, poi c'è Rita, Alessandra, Giulia, Roby, la Roberta e la Federica. Benissimo, tutte amiche, qualche parente, qualche collega? No, allora, lei è una mia ex collega di lavoro e poi sono tutte amiche. Lei è mia cognata e tutte amiche. Bene, tra l'altro ho notato un tatuaggio interessante sul tuo braccio. Sì. Spiegaci un po', dai. Che secondo me ha anche un po' a che fare col tuo vestito, sì, Sei tutto in tempo. Si abbina. Che l'hai sì. fatto stamattina? Sì, perché l'ho fatto apposta. Sì, no, commissionato da loro, tra l'altro. Cioè, hanno detto: facciamo un tatuaggio a caso, hanno guardato questo e tu non sapevi il motivo. Esatto. No, dai, a parte gli scherzi, spiegacelo. Non ce l'ho, niente, semplicemente ci tenevo ad averlo. Spiega, perché giustamente chi ci sta ascoltando non lo vede, quindi raccontaci un po' cos'è. Ok, sì. Ci sta, allora, ci sta. Tatuato sul polso, no, con cordoncino e collanina, esatto, corda, non solo la croce, esatto. Sì, esatto, che vai, c'è tutta una corda disegnata con le sue palline, esatto. Le sue palline, insomma, un rosario disegnato, fatto bene, insomma, tutto completo. E diciamo che c'è un po' riprende un po' la moda dei bracciali che vanno sui bicipiti di solito, ma questo è molto più personale. Esatto. E come mai questa scelta? Così. Perché mi piaceva, ci tenevo davvero. Bello. No, è molto particolare. Poi giustamente lo dici tu, fatto molto bene. Nel senso, molto semplice ma sì. incisivo. Allora, vuoi salutare anche il tuo futuro marito? Vuoi dirgli qualcosa? No, gli devo dire di star tranquillo. Mi sto divertendo un casino e basta. Anche perché, come dice Moby, prima vestita da suora. Insomma, non è che... No, non c'è nessun pericolo. Esatto. No. Esatto, poi ancora vestita, soprattutto ancora vestita. Esatto. Ecco, io ti posso assicurare che sembrava un po' tipo il repellente per le zanzare, cioè vedendo una vestita la suora tutti si allontanavano perché dicevano ma Dio questa. Invece. E quindi è stato azzeccato per evitare interferenze. Esatto. Ok, vuoi dire qualcosa anche loro visto che ti hanno organizzato la serata? Gli devo dire grazie. Grazie perché non stavano ridendo di lei, sì, sia chiaro che sono dei loschi figuri, esatto, che passano di qui, no, perché magari sembrava no, grazie e ridono. Sembrava... Niente, volevo ringraziarle perché si sono sbattute tantissimo e mi sono divertita un sacco. Vi voglio bene. La serata non è ancora lunga, tra poco andiamo a letto perché sono stanca morta. Mi piace questa come comanda il gruppo. Punto, fine. E basta. No, ma quello ovviamente, cioè, è da un anno che lo sa che deve fare il bravo, per cui se non lo fa gli spezzo le ossicine. Bene, considerato che sono tipo esatto. Tipo che sono considerato che sono 205, ce n'è da lavorare. Esatto, esatto. Beh, quindi lui sarà vestito da frate, da prete per. Non ne ho idea, lui è convinto che lo vestono da donna, adesso vediamo. Però beh, parte forte come addio, diciamo che sarà. Ma non vede l'ora lui di festeggiare. Sì. Bene, insomma, è un bel momento anche da ricordare tutti insieme, visto che più il tempo passa più è difficile creare queste serate, queste occasioni, è anche bello, dai, celebrarle e divertirsi, quello che conta è quello. Ok, allora, grazie alla nostra ex suora a questo punto, perché ormai ha già svestito i panni ufficiali da... No, non stavo dicendo monaca, ma monaca non è. E grazie soprattutto alle sue amiche per avercela portata qui. E le auguriamo tantissimi auguri per il suo futuro matrimonio e in bocca al lupo per quello che sarà. Grazie ancora, ragazze. Ciao! Ciao!